Epilog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Pensavo che non sarei più tornato sull'argomento, ma il tempo, ma mi urge necessità di farlo. Mi rendo conto che sta accadendo qualcosa, forse unico nella mia esperienza esistenziale. Per la prima volta leggo titoli dei giornali che annunciano la neve come se fosse un disastro. Mi ricordo che la neve era furore di allegria. Su un free press preso questa mattina in metropolitana, l'apertura è Roma, torna la neve, weekend da incubo. Ma può esserci un paese civilizzato, mediamente mediterraneo, l'incubo perché nevica? Sembra impossibile, una città come Roma poi, una città a cui nevica veramente una volta ogni 30 anni, può essere veramente un problema. Eppure un problema è un problema per tutto il paese. Le aperture dei giornali, i programmi speciali, i canali speciali dedicati al meteo, l'allarme generale, i pezzi di ghiaccio si staccano dai cornicioni. Ieri ne è cascato uno proprio qua vicino sul naso di un signore che passava. Sembra una cosa che appartiene ad altre epoche. Queste cose non succedevano nel mondo civilizzato, non succedono nelle città baciate dal sole, dal mare e via dicendo. Eppure accadono. Le istituzioni si stanno rimpallando le responsabilità. È colpa tua, non è colpa mia, era colpa di quello, di quell'altro. Appaiono depositi di spalaneve, spazzaneve, di macchine fatte apposta per spazzare la neve, messe lì, abbandonate, come carri armati in disarmo in tempo di pace eterna. Beh, quindi, probabilmente, visto che le cifre delle vittime sono impressionanti, 40 morti questa ondata di maltempo, paesi isolati dalla neve, lupi che scendono nelle piazze di L'Aquila. Io ci ho scherzato venerdì, avevo messo l'effettino sotto del professor Chiappini con i lupi della steppa presa dai film di avventure di fantasy, mi sembrava di fare una cosa paradossale. La mattina avevo fatto un filmino, l'avevo messo su YouTube dove dicevo la capitale ammantata di neve, avevo messo della bambagia davanti all'obiettivo del mio tablet per fare una cosa spiritosa, e poi è accaduto davvero. Poi veramente c'è questo. E quindi cosa si fa? Quindi ci si organizza. Mi sono reso conto che facendo una ricerca su motori di ricerca, su Google e via dicendo, esistono già in Italia un numero impressionante di corsi di sopravvivenza nella neve. Ci sono addirittura degli weekend che si possono offrire come pacchetto regalo agli amici, costano 140 euro, 150 euro, sono cifre abbordabili, dove per 3 giorni ti portano in mezzo alla neve, ti fanno fare la marcia forzata nella neve, ti fanno mangiare la colazione Trapper, mi ricorda Black Macigno, sarà, non so, scorticare gli scoiattoli e mangiarseli vivi, non so, adesso non tremino, qualcosa del genere, non so cosa facciano i Trapper. Poi costruirsi un igloo. C'è anche come si costruisce un igloo, un rifugio nella neve, si dorme una notte a ghiaccio neve, si torna, che si sa tutto di come comportarsi nella neve, altro che scivolare sul marciapiede ghiacciato o andare in giro con la palettina di plastica di Alemanno a spostare le pigne dai marciapiedi. No, lì è roba seria, roba tosta, roba per uomini veri. Probabilmente questo è interessato finora una fetta ristrettissima di uomini duri, di uomini pronti a tutto. Ma da oggi probabilmente tutti dovremmo cominciare a studiarci il manuale di sopravvivenza nella neve. Tutti dovremmo capire quali sono le 10 cose che occorre procurarsi nei momenti di emergenza. L'avessi saputo l'altro giorno al supermercato, non avrei trovato il presente senza sale, senza farina, senza ciobar. Non c'era più niente dei generi di conforto normali. Il sale era scomparso, la farina era scomparsa, il latte era scomparso, non c'erano biscotti, non c'erano gallette. Non so perché la gente pensa che nei momenti di disperazione occorra comprare le gallette. Questo è un ricordo della grande marcia in Russia, ma chi le mangia più le gallette? Le gallette erano una specie di crackers durissimo che si rompevano a pietrate. Tutti cercano le gallette perché fame, neve, isolamento, guerra, improvvisamente riemergono i ricordi delle nonne. Beh, invece no, bisogna affidarsi a chi queste cose le fa per mestiere. Anche in una piazza centrale di Torino l'altro giorno hanno costruito un igloo, erano due ambientalisti, due professori universitari che hanno fatto vedere come con la neve di Torino è stato possibile costruire un igloo. Quindi preparatevi anche voi a costruire il vostro igloo. Preparatevi voi a fare il gabinetto siberiano che, composto come tutti sanno, di due bastoni. Uno si pianta per terra e ci si appoggia e l'altro serve per tenere lontani i lupi. Preparatevi anche voi a avere il kit di sopravvivenza, visto che ci sono persone nel nostro paese che questo insegnano da anni e che oggi probabilmente saranno i docenti più richiesti e loro saranno i corsi più frequentati da qui a qualche giorno, prima del grande incubo della glaciazione del nostro paese. 800240024. Cosa sapete voi della sopravvivenza nella neve? Noi viviamo in una società troppo comoda, ci sentiamo perduti se manca la corrente, se si ferma il frigorifero o l'ascensore. Siamo perduti, passiamo una giornata d'inferno, ma a forza di comodità ci siamo indeboliti. Abbiamo cancellato le nostre innate capacità di difenderci con mezzi naturali dalle situazioni difficili, impreviste e ostile. Qui non c'è corrente elettrica, quindi niente luce. Mi chiamo Mario e faccio il pilota. Civile? E che c'ho la faccia da selvaggio? Sono qui per imparare, perché non si sa mai. Che so, un atterraggio d'emergenza nel deserto del Sahara, nella foresta amazzonica, insomma così so come devo fare. Insomma. Mi chiamo Roy, ma è un nome d'arte perché faccio l'attore. E viste le tendenze del cinema internazionale vorrei specializzarmi in un genere avventuroso. Bravo Stoli, siamo marito e moglie. Questo era un film, Noi uomini duri, con Pozzetto e Montesano, faceva il tranviere, non faceva il pilota in realtà. Ma anche loro vogliono cominciare a capire come ci se la cava con le proprie mani, come l'uomo duro è colui che riesce a sopravvivere e far sopravvivere la propria famiglia senza chiedere aiuto in giro, senza piangersi addosso, senza rilasciare interviste alle telecamere dei telegiornali che girano per le strade, alla ricerca di vecchie schiantate, di giovani disperati, di massaie depauperate e di zucchine levitate improvvisamente, diventate costosissime. Non si trovano più le zucchine, vabbè, ma non è stagione delle zucchine, compratevi il cavolfiore se volete mangiare, qual è il problema? Non c'è più la zucchina, panico per la zucchina mancante, e i succedani della zucchina improvvisamente levitano sul mercato. 800240024, cosa ne sapete voi della sopravvivenza nei momenti di difficoltà? Questo qua è il mio kit di sopravvivenza. Qua abbiamo una borraccia di fiammiferi antivento, è un kit per il cucito dove c'è un ago, dei fili e delle spine da baglia. Qua abbiamo un piccolo kit per mangiare cose varie, contiene delle grappa, nodi per brodo, Nescafè, zucchero, del tè e del polasere. Qua ci sono delle fascette di plastica e dei petardi per scacciare animali o farsi trovare. Ieri mi sono fatto una cultura perché ho scartabellato un po' per questi siti. Ho imparato molte cose che non sapevo, non immaginavo, ma dai tempi della più remota e maledetta giovinezza che non vado in montagna alla ricerca di situazioni estreme per provare me stesso, con gli amici si andava a fare queste lunghe passeggiate, si passava le notti sui monti, erano tempi in cui queste cose si facevano, erano lo spirito dell'epoca, ma oggi raramente uno si arrabbia se la funivia rallenta, se non c'hanno quella marca di cioccolata nel rifugio che noi siamo abituati a prendere. Questi sono i disagi, queste sono le difficoltà, o se non si trova la giacca vento ultimo grid, ultima marca, con il tessuto tecnico più alla moda. Beh, invece ci sono persone, YouTube pieno di consiglieri di kit di sopravvivenza di tutti i tipi. Gente che in tempo di pace, in tempo di bel tempo, in tempo in cui la neve era soltanto un divertimento, in tempo in cui non c'era il bisogno di considerarlo un'emergenza, una sorta di calamità nazionale, una sorta di elemento angosciante, nel tempo in cui non si è tornati alla ritirata in Russia delle gavette di ghiaccio, ma si sta normalmente in delle città riscaldate con i termosifoni, anche se il gas scarseggia, probabilmente ce ne sarà per tutte le famiglie. Beh, c'è qualcuno che invece metteva a punto le tecniche di sopravvivenza, metteva a punto le rassegne dei kit di sopravvivenza, e queste sono le persone che oggi meriterebbero la massima attenzione. Oggi mi sono costruito il mio kit di sopravvivenza. Allora, iniziamo dalla piletta, è una pila dinamo a 3 LED, fa una luce molto potente e non ha bisogno di batterie, si carica così manualmente, della benzina, un richiamo per gli uccellini, degli ami da pesca, il coltellino multiuso, abbiamo il kit di pronto soccorso, abbiamo anche un termometro, qui dentro abbiamo delle micette per spaventare eventuali animali o predatori, del nastro isolante, una clessidra per accendere il fuoco. Qui abbiamo un accendino. Povero ragazzo, ve lo immaginate, con la pila manovella comprata nel mercatino dei cinesi a LED. Con il termometro infilato per provarsi la febbre, e una volta che c'ha la febbre che fa? Da solo, niente. A tirar micette contro i branchi di lupi affamati che lo assediano. Come si salverà la vita? Probabilmente a poche speranze. Ma possiamo venire incontro, perché al di là delle facezze c'è chi queste cose le sa davvero, dandovi qualche lezione e qualche istruzione da chi veramente di queste cose ne sa. Renato Palmieri, buongiorno. Buongiorno. Renato Palmieri è una guida ambientale escursionistica, istruttore di sopravvivenza di ItaliaAdventure.it, è in Abruzzo e in una casa totalmente attrezzata ad ogni tipo di evenienza. Come ha organizzato casa sua? Allora, casa mia è organizzata da tanti anni per la non disponibilità di acqua, luce e gas. Quanti giorni di autonomia ha la sua casa? Beh, infinita, perché comunque c'è il caminetto, sì, se viene organizzata nel modo in cui l'ho organizzata io si può vivere tranquillamente senza la comodità, che alla fine il gas, la luce o l'acqua diventano una comodità, cioè averli a casa non c'è bisogno di andare a prendere, per cui con un caminetto e un forno a legna dentro casa. Beh, poi una bella scorta di legna, avrà un magazzino pieno di legna secca, pronta. Ma vivo vicino al bosco, quindi... Quindi la va a tagliare direttamente? Sì. Naturalmente con ascia e sega a mano, non motosega, perché... Non motosega, no, perché la legna la faccio giornalmente o comunque in determinati periodi, anche d'estate, quindi durante tutto l'anno, in modo da arrivare all'inverno già con una scorta di almeno 30 quintali di legna. Quindi lei ha 30 quintali, male che vada, autonomia finché dura il bosco, quindi infinita. Sì, esatto. E va bene, questo è il riscaldamento, poi per la luce sì. Come fa? Per la luce ci sono, il caminetto già fa luce nell'ambiente in cui si vive per la maggior parte del giorno, e poi insomma casa mia è piccolina. Poi si va a letto presto, come si faceva una volta. Esatto, questo aiuta a rispettare i ritmi naturali, si va a letto presto, ci si sveglia prima, cioè si sfrutta di più la luce del sole. Comunque ho in ogni ambiente un portacandele. Di quelli, quindi a candele e scotta di candele. Sì, sì. Per l'acqua? Se ne è parlato, in molti paesi colpiti dalla neve sono zompate anche le condutture idriche, quindi sono anche senza acqua. Sì, infatti mi si sono gelate anche a me il contatore lì dell'acqua, e niente, io ho una giara di terracotta da 100 litri e che uso per... Quindi non un autoclave in acciaio o in fibra di vetro, ma una giara di giara terracotta. Come quella di Pirandello, praticamente. Esatto, e mi aiuta ad avere dell'acqua, insomma, 100 litri, vivendo da solo, ci sto dentro anche per un paio di mesi. E se finisse la giara? Scalda la neve? Sì, si può, comunque, sì, ci sono varie sorgenti dove si può prendere acqua, o male che va si può sciogliere la neve, però ecco, non ci si trova nella condizione di dover avere il bisogno di 10 litri d'acqua perché si è interrotta completamente, quindi si riesce ad organizzarsi in maniera per non andare in panico. Ecco, lei riesce come istruttore di sopravvivenza poi a spalmare nei limiti delle possibilità qualche consiglio rispetto a chi non abita come lei, non ha la fortuna di abitare al centro di un bosco con la giara di terracotta? Io non saprei nemmeno dove metterla a casa mia, non ho spazio nemmeno per i libri, figuriamoci. E come ci si organizza in una città, ad esempio? Allora, in una città è molto più difficile, perché in una città non c'è il bosco, e noi si sopravvive grazie al bosco, comunque grazie alla natura. In città la natura è stata soppiantata ed è stata sostituita dal cemento. Il cemento ci dà poco sia da mangiare che da riscaldarci, quindi in città la cosa migliore è fare o avere la possibilità di una via di fuga, un rifugio, una casa. Quindi la seconda casa sarebbe preferibile in questi città momenti? Sì, organizzarla in città bisognerebbe trovare uno spazio, ecco, per avere delle scorte, organizzare delle scorte sia di cibo che di acqua, però naturalmente in città non c'è il caminetto, quindi per scaldarsi diventa più difficile. Ci si potrebbe attrezzare mettendo una di quelle vecchie cucine economiche, quelle stufe che dentro ci si mette la legna, sopra ci insomma, si trovare la legna in un quartiere centrale di Roma è difficilissimo. È difficile. Ma uno dovrebbe, male che vada, va in giro e sega gli alberi, l'hanno fatto. L'altro giorno hanno segato un sacco di alberi perché c'era la neve sopra e si arrangia così. Rispetto ai kit che ha sentito elencare prima sì. da persone su YouTube, qualcosa faccia sorridere, le micette per spaventare gli animali fanno un po' sorridere. Sì, sì. Ma se lei dovesse consigliare un kit di sopravvivenza per attraversare una città coperta di neve, non sapendo se si trova poi aperta una farmacia, un'edicola, un qualunque cosa, cosa consiglierebbe di tenersi dietro? Allora, per il kit di sopravvivenza la cosa più importante è avere la volontà mentale di voler sopravvivere. E questa è la prima cosa. Senza la quale qualsiasi oggetto non si riuscirebbe nemmeno ad utilizzarlo. Secondo, la cosa più importante è quello che si può mettere in un kit di sopravvivenza, che sono delle cose di facile reperibilità, vanno sapute usare. Per cui prima di prepararsi un kit che può essere completamente inutile, e la cosa importante è frequentare dei corsi. Anche perché è inutile avere l'ago e il filo come Rambo per chiudersi le ferite, io non avrei mai il coraggio di cucirmi la pancia con un ago da solo. Esatto, oppure avere dei fiammiferi antivento, poi magari non si sa usarli perché molte volte quando li si mette alla prova non sanno accendere i fiammiferi. Non è facile, il fiammifero antivento non si accende manco con le bastonate. Cioè. E poi un gesto primordiale, anche il fiammifero familiare, quello da casa, di cui si è persa la manualità, per cui è stato aggiunto anche nei corsi che si fanno da 2 anni a questa parte una lezione su come si accende il fiammifero. Ma lei è capace di accendere un fuoco con le bacchette di legno, con le pietre focaglie, con la lente, queste cose? Con le pietre focaglie e con la legna, sì. Io il fuoco lo accendo sempre, non uso né fiammiferi né accendino. Con 2 sassi? Questo viene insegnato nei corsi. Con le stecche, sì, quello è un metodo più tropicale. Con le pietre, invece, si può accenderlo anche sulla neve. Perché scintillano. Fermiamoci un attimo, sentiamo Anna, qualche ascoltatore. Anna, buongiorno. Buongiorno. Sono Anna, chiamo da Reggio Calabria. Volevo raccontare un'esperienza che ho avuto a Montalto, che è una zona in Aspromonte. Praticamente c'è un gruppo di ex scout, abbiamo fatto scoutismo da ragazzi e ogni estate ad agosto andiamo a vedere l'alba, perché in quel punto di Montalto si vede sia la costa ionica che la costa tirrenica. È uno spettacolo unico. È bellissimo, è una cosa. E allora quel giorno di agosto ci abbiamo pernottato, siccome ero assolutamente impreparata. Lei era sola con tutto un gruppo di boy scout? Ero solo con un gruppo di persone, eravamo una serie di famiglie addirittura con bambini, però loro erano attrezzati perché ci vanno ogni anno, quindi avevano tende tecniche e sacchi a pelo. E lei con cosa era andata? Io ero andata con una tuta da ginnastica felpata e un sacco a pelo, mi diedero una tenda canadese di tela, le si immagina. Ah, quelle antiche? Quelle antichissime. Sì, quelle che c'erano i preti quando portavano gli scolaresi. All'addiaccio praticamente. E quindi ha avuto, da sola una tendina, si è resa conto cosa significa? Ho avuto uno shock termico, io sono infermiera, praticamente sono sopravvissuta perché quando ho iniziato a capire che si è autofatta la respirazione artificiale, come ha fatto? No, ho incominciato ad avere tachicardia, non poter respirare. Intanto il fuoco si era spento perché avevano acceso il fuoco che era rimasto tutta la notte, soltanto che verso le 3 del mattino si era spento. Se non c'è qualcuno a sorvegliare il fuoco, di solito nei campi uno rimane sveglio. No, c'era qualcuno, ma l'hanno fatto spegnere, si sono addormentati. Praticamente mi sono ritrovata, mi creda, in una tenda canadese di tela che morivo di freddo, battevo i denti, non riuscivo a muovermi, avevo uno shock termico. E come sei salvata? Mi sono salvata perché capendo che stavo iniziando a stare veramente infermiera. Male, mi sono alzata, ho incominciato a fare movimenti, a muovermi proprio, a saltellare sul posto, a fare ginnastica, a muovere il mio corpo per riscaldarmi. E devo chiamare 3-4 boy scout volontari a riscaldarmi. Ho chiamato per fare rialimentare il fuoco. E poi mi sono ripresa dopo che mi è arrivato questo calore addosso, perché il movimento mi ha aiutato a reagire. E comunque poi, vabbè. Dopo il movimento si è dato un fuoco che l'ha riscaldato. E si è salvato. Fuoco, ho bevuto, mi hanno dato del liquore perché poi. Il cordiale. Mi hanno dato. Avevamo vino, avevamo fatto una bella mangiata di salsiccia. C'era stato un momento estremamente bello. Tra l'altro, poi l'alba è eccezionale. Guarda, è una delle cose più belle che ho fatto. Però vedi, non si può mai andare a fare queste cose non attrezzati. Sì, assolutamente. Senza attrezzare. Sì. Quindi dobbiamo imparare. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Lei è un esperto di sopravvivenza? No, io chiamo da Napoli, per cui siamo esperti in emergenza, siamo in emergenza da sempre, per cui... Sì. Chiedo scusa, sappiamo che stiamo parlando. È anche cagionevole di salute, senta, il freddo l'ha colpita anche a lei profondamente? Ma guardi, il freddo, a noi il freddo e la pioggia fanno bene, perché questa è una città sporca, che se non si lava. Ah, quindi si lava. Ah, perfetto. Si purifica col freddo. Certo, aspettare la pioggia per lavarsi è un po' di altri tempi, però. No, ma a noi non manca mai niente, devo dire, anche se alla fine siamo autodidatti, insomma. Beh, ma lei ha qualche consiglio di sopravvivenza, quindi? Ma guardi, se ci sono dei problemi basta che la gente viene a Napoli, qui abbiamo tutto nonostante problemi enormi che ci sono. Lo terremo presente, vendete di tutto per sopravvivere. Laura, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Io sono tornata ieri sera da Roma, volevo solo portare la mia esperienza di sopravvivenza a Torino, perché per lavoro appunto mi sposto anche lì. Io credo che dobbiamo riprendere a fare certe cose che non facevamo prima. E cosa ti è accaduto a Torino? A Torino mi è accaduto che praticamente anche lì la città è bloccata, nonostante i mezzi siano intervenuti, diciamo, tempestivamente. Adesso io non conosco la situazione di Roma, me l'hanno solo raccontata. Beh. Però appunto non è che ci sia stato un dramma terrificante, cioè c'è stata un po' di neve, si è bloccato infatti, il traffico. Infatti, solo che a Roma non siamo abituati. Ma ecco lì, chiaramente la città era bloccata, i mezzi non passavano, per cui ero appunto ospite di mia cugina, ho messo, diciamo, i suoi scarponi da montagna e praticamente ho camminato per la città. Che vuol dire veramente, diciamo, dalla semiperiferia spostarmi al centro di Torino. Vabbè, quanti chilometri avrai fatto? Non è che Torino sia una metropoli immensa, avrai fatto 5-6 chilometri. Però insomma i 5-6 chilometri al giorno me li sono fatti. Ma ti fa bene, scusa, invece che andare in palestra a correre sul tapirulan. Ma infatti, questo secondo me è il significato. Respiri anche meglio, è un esercizio migliore. Esatto. Io queste signore che si massacrano il saltellamento dei glutei sul tapirulan, ore sul tapirulan, mettono la salita, doppia salita, tripla salita, una puzza di sudore, un odore di piedi bestiale, uno cammina per strada con la neve, non ci sono nemmeno le macchine. Quella sì che è una regola di sopravvivenza ottimale. Ci fermiamo solo un istante, ma abbiamo testimonianze di persone isolate da neve, di persone che ci diranno come sopravvivere in queste circostanze. 800 24 00 24. Melog, la realtà condivisa. Con temperature così rigide bisogna fare molta attenzione agli oggetti metallici, esempio un coltello, che si attaccano velocemente alla pelle. Se vi capita un episodio del genere, non provate a tirare l'oggetto, poiché vi strappereste la cute provocandovi grosse ferite. In questi casi la soluzione ideale è urinare o versare un liquido caldo sulla zona finché non si scolla. Pensare che in questi giorni va la pubblicità di uno snack in cui si vede un ragazzo che, siccome ha toccato con le dita unte di palline formaggiate un nano di ghiaccio, ci appiccica la lingua per leccarlo e rimane con la lingua attaccata. Invece, se avessero letto il kit di sopravvivenza, sanno che quando c'è neve non si toccano gli oggetti metallici. 800 24 00 24. Stiamo radunando quanto c'è di meglio in rete rispetto all'idea che sopravvivere è un dovere, ma sopravvivere è anche un'arte, anche un mestiere, è anche una capacità che si acquisisce facendo corsi di sopravvivenza. Ce ne sono tantissimi, possono essere anche offerti, regalati come pacchetto, tutto compreso, di un paio di giorni. Si fanno marce, si fanno pernottamenti, si apprende a costruirsi rifugi nella neve. Questo probabilmente psicologicamente potrebbe aiutare molte persone. Però sentiamo qualche sopravvissuto. Karin, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono 5 giorni che sono prigioniera di ghiaccio e di neve. Ma dove? Dove questo? A Trevignano Romano. Beh, Trevignano Romano non mi pare sia proprio veramente sulle pendici dell'Himalaya. Non c'è un trenino. Ma non c'è un trenino che la può portare verso il mondo civile, no? No. Io abito in un consorzio privato dove il comune ovviamente non viene, e poi c'ho una mia rampa di accesso che c'ho metro, c'era fino a ieri un metro di neve. Quindi da 5 giorni sole isolata in mezzo al ghiaccio. Sì, va bene, con cane e gatto. Vabbè, il cane e gatto si rimangia alla fine, perché fra un po' si rimane. No, penso proprio di no. E loro mangeranno lei però alla fine quando avranno fame? Non durerà così tanto. Ma lei come ha sopravvissuto 5 giorni senza aver fatto un corso di sopravvivenza? Ce lo racconti. Allora, due cose. Uno, ho sentito i bollettini di guerra per tanti giorni e perciò ho fatto la spesa. quindi si può muovere. Io posso sopravvivere un'altra settimana senza problemi. Uno. Due, io sono cresciuta in Baviera, nelle montagne, ai tempi di guerra e post-guerra. Figuriamoci, lei può insegnarci. Figuriamoci, ho passato la giovinezza a Spallaneve. Adesso non ci penso nemmeno di farlo, ma comunque so come si fa. Da ragazza si tuffava nuda nei ghiacciai come fanno i salutisti austriaci? No, assolutamente no, vestita ben calda. Non c'erano queste cose meravigliose tecnologiche che ci sono oggi, ma insomma calzini caldi, stivali da... Ma da ragazza ha fatto dei corsi di sopravvivenza, qualcosa? Ma no, la sopravvivenza era un corso continuo, era una cosa che tutti i giorni ci si provava tutti. Ma quali erano i rischi che ha attraversato nella sua fanciullezza tra le Alpi bavaresi? Ma non erano i rischi miei, era piuttosto che la gente sapeva mettere mani a qualcosa senza avere bisogno di enormi mezzi. Ecco, se la cavavano con le loro stesse mani, non aspettavano sempre. Sì. Allora, una cosa, ogni contadino prendeva due palanche, le metteva a angolo retto, poi le fissava con una tavola di traverso e poi ci metteva il cavallo davanti, prendeva una lanterna e all'alba cominciava a spazzare le strade. È uno spazzaneve artigianale, ecco. Sì, però si può fare. Allora, certo. Dopo, quando c'era un po' più soldi e c'erano mezzi che giravano, si metteva la palanca di sbieco davanti a un camion e il comune faceva passare questi camion con la palanca che spazzavano la neve, ma grandi quanti. E oggi invece a Roma gli spazzaneve l'hanno tutti lasciati in un deposito lì, nessuno li toccava, erano fermi. Le palanche spazzaneve erano degli attrezzi da attaccare ai camioncini dell'AMA, della municipalizzata, che sì, potevano... avrebbe funzionato benissimo. No, abbiamo visto di tutto, abbiamo visto il sindaco spalatore, il sindaco sghiacciatore, il sindaco alpinista, non abbiamo visto il sindaco con la palanca, lei ha dato un ottimo consiglio. Annabella? Sì, sono qui. Quanti giorni è sopravvissuta lei? Senza acqua? Sono 8 giorni che sono tappata in casa, perché prima c'è stata la neve, ora c'è il ghiaccio. Io cammino con un bastone, non posso avventurarmi fuori. Però sono stata 50 ore senza luce, senza riscaldamento, senza acqua, senza radio, senza televisione, senza telefono. E cosa ha fatto in queste 50 ore? Allora, mi sono organizzata. Grazie a Dio avevo il gas, la bombola. La neve l'ho sciolta, è diventata acqua. L'acqua è diventata acqua calda per le bottiglie dell'acqua calda. Perfetto. Sono piena di candele, perché in campagna le candele servono. E poi ho ritirato fuori tutto quello che c'è di caldo, doppie calze, cuffie in testa in casa. E poi la notte ho messo il cane sul letto, così mi ha tenuto al caldo. Insomma, ecco, sono sopravvissuta e non vedo l'ora che vada via la neve, perché ho avuto il tempo per pensare a quante cose belle potrò fare quando le cose miglioreranno. Dispiacerà il cane che quando ci sarà il disgelo non potrò più andare a letto con la padrona, però i miei cani hanno sempre dormito con me. Benissimo, allora. Va bene, grazie. Giuseppe Fasulo, buongiorno. Salve, buongiorno. Giuseppe Fasulo è uno dei nostri esperti, probabilmente quello più competente nel settore neve, è una guida escursionistica, istruttore di corsi di sopravvivenza della Sibillini Adventure. Avete un sito, anche voi fate corsi di sopravvivenza. Come si chiama, come è articolato e come funziona il vostro corso? Voi lo facevate a priori del fatto che l'Italia sia coperta dalla neve in questo momento? Sì, noi facciamo corsi da più di 10 anni e per noi la mentalità della sopravvivenza è una mentalità che acquistiamo tutti i giorni, quindi i nostri corsi già sono dei corsi preparatori per queste esigenze, cioè la mentalità del survivalista è una mentalità che si acquista per prevenire queste situazioni di emergenza. Quindi avevo ragione quando ho detto che aiutano soprattutto a creare un condizionamento psicologico nell'affrontare il disagio, che non si va nel panico, ecco. Esatto, si crea in pratica una mentalità di adattamento a tutto quello che riguarda le emergenze e quindi gli imprevisti. Voi cosa fate fare? Come è articolato il corso? Allora, noi quando facciamo i corsi, in particolare i corsi invernali, prima di tutto spieghiamo come ci si orienta, sia con gli strumenti di navigazione che senza strumenti di navigazione, quindi orientamento naturale. Non è detto che uno abbia il tom-tom, poi questi giorni chi aveva il tom-tom aveva la macchina bloccata alla neve, non si poteva muovere. Esatto, non bisogna fare affidamento su strumenti che vanno ad energia elettrica. ma soprattutto sulla nostra capacità, appunto, sia mentale sia psicologica, di affrontare queste situazioni. Ma è vero che il muschio sull'albero indica il nord dalla parte dove sta il muschio, quindi con quello ci si orienta? Esatto, però questo non è sempre vero, perché si possono creare dentro le valli dei microclimi particolari in cui questo non è sempre... In cui il muschio sta sud, uno va verso sud e sbaglia zona, ecco. Poi esatto. Il caldo fate fare, esattamente, come ci si comporta, come si sopravvive? Voi fate sopravvivere praticamente 2 giorni dentro, in mezzo alla neve, lì ce n'è tanta. Sì, noi facciamo costruire dei rifugi nella neve, in pratica gli igloo, che sono dei rifugi semipermanenti, dove è possibile anche stare un mese se le condizioni climatiche sono quelle idonee. Lei quanto ha dormito nell'igloo al massimo? Quanti giorni c'è stato? Io sono stato 3 giorni. Dentro l'igloo sempre? E si riesce a vivere tranquillamente? L'igloo permette, grazie a questi blocchi di neve compatta, di stare a una temperatura anche fino a 10 gradi sopra lo zero, indipendentemente dalla temperatura esterna. Fuori può fare anche meno 40. Non è... E dentro si accende una candela, si accende qualcosa per tenere il minimo di calore necessario? Già la temperatura corporea permette di mantenere un livello costante, però accendendo una candela è possibile ancora aumentare l'isolamento, quindi fa ancora più caldo. Ecco, poi quale altra, diciamo, regola essenziale le suggerirebbe per non farsi male con la neve, in mezzo alla neve, in situazioni... Ci sono situazioni, adesso noi ci abbiamo scherzato, ma ci sono paesi veramente sono stati isolati giorni e giorni, persone non abituate a affrontare questa esigenza. Abbiamo sentito le signore coi cani, coi gatti, con le coperte, ma qualche consiglio pratico lei da dove inizierebbe, proprio per se volesse dare dei consigli? Prima di tutto bisogna evitare i 2 grandi problemi delle basse temperature, cioè l'ipotermia e il congelamento. Quindi bisogna evitare l'ipotermia, non è altro che un abbassamento della temperatura corporea al di sotto dei 36 gradi, e quindi si va poi in affideramento, quella che poi viene chiamata la morte bianca. Uno si addormenta e non si sveglia più. Allora, si fermi soltanto un istante, diamo le informazioni del traffico sulla morte bianca, sospendiamo un secondo, poi continueremo con i consigli che sembreranno delle cose superflue, perlomeno lo saranno sembrate fino a qualche giorno fa. Oggi probabilmente molti ci ascolteranno con attenzione, anche perché le previsioni dicono che ci sarà un weekend da paura, e quindi noi ci prepariamo. A tra un istante. Melog, la realtà condivisa. L'acqua. Se trovate un ruscello o un fiume che scorre, potete berne la sua acqua. Evitate di dissetarvi in pozzanghere e in pozze di acqua stagnante. L'acqua che troverete in un fiume sarà comunque gelida. Dovrete bere a piccoli sorsi e tenerla in bocca prima di ingoiarla. Non mangiate o succhiate neve o ghiaccio. A temperature di meno 20 gradi, questa azione vi provocherebbe ferite e lacerazioni a labbra e gola. Se volete bere neve o ghiaccio, scaldateli prima in un recipiente scuro o con il calore del fuoco o del corpo. 800240024, sopravvivere nella neve. Stavamo parlando con Giuseppe Fasulo, guida escursionistica, istruttore di corsi di sopravvivenza nella neve, Sibillini Adventure. Ci eravamo fermati, signor Fasulo, sulla morte bianca. Diciamo, il primo pericolo è quello di andare in ipotermia, quindi di morire di freddo. Come si comporta un normale cittadino sprovvisto delle basilari nozioni di sopravvivenza? Si copre, esce, poi ha sete, beve la neve e si ustiona con la neve. Ecco, insomma, rispetto a queste norme di primo impatto, vediamo cos'altro possiamo aggiungere. Allora, una cosa importante per evitare l'ipotermia è l'abbigliamento. Quindi ci vuole un abbigliamento, bisogna indossare dei vestiti caldi, perché le parti del corpo che maggiormente vengono esposte al congelamento, quindi sono il naso, le orecchie, le mani, i piedi, e questi sono i punti dove si disperde maggiormente calore. Quindi indossando degli abbigliamenti invernali caldo si evita l'ipotermia e quindi anche il congelamento. Salvi era un problema, io ho visto Salvi questi giorni, quelli che bene o male avevano qualcosa da sci in casa, recente o antico, ho visto resumare tutte da sci degli anni 50, però perlomeno si salvavano. Quando io vedevo dei signori anziani andare in giro con le scarpe con la suola liscia e con i mocassini con cui vanno in giro normalmente, probabilmente non avevano altro. Ecco, questo è il vero problema. Esatto, l'abbigliamento, quindi bisogna sempre cercare di prevenire queste situazioni. L'abbigliamento è importantissimo in queste... Noi in pratica quando stiamo a circa meno 20, meno 30 sotto zero, l'abbigliamento è fondamentale, quindi un abbigliamento caldo. Quello, se uno ha delle tute da sci, vanno bene, salopette, tute da sci, coperte, tutto quello che possa servire per coprirsi. l'importante è coprirsi. Ecco, nei posti dove mancava l'acqua, molti dicono non c'era l'acqua, la cosa più istintiva viene: prendiamo la neve e ci mangiamo la neve. Ma come hanno detto in questo stralcio preso da nozioni che ho trovato in qualche sito in internet, anche la neve va trattata se bisogna usarla come liquido da bere, da ingerire o da cucinare. Allora, la prima regola, come abbiamo detto prima, è la prevenzione. Quindi uno deve farsi prima le scorte di acqua, possibilmente, per evitare queste situazioni. E con un chilo diciamo di acqua è possibile ricavare da 10 kg di neve un litro di acqua, quindi non è facile dalla neve ricavarne il liquido. È possibile con il ghiaccio, forse è meglio sciogliendo il ghiaccio, si ricava più acqua. Va fatto bollire naturalmente. La bollitura serve appunto per sciogliere il ghiaccio o eventualmente la neve, però come dicevo prima 10 kg di neve si ricava soltanto un litro d'acqua. Quindi hai voglia a fare neve per usare l'acqua, per avere acqua diciamo a sufficienza. Esatto, raccomando a tutti quanti, quando si trovano in queste situazioni invernali, di bere l'acqua, perché l'acqua è importante in quanto è un ottimo regolatore termico. Uno può anche disidratarsi in inverno senza bere l'acqua. Questa è una cosa che pochi sanno, che invece è importante bere come fosse estate. Esatto, perché permette di mantenere sempre quella temperatura. Noi sappiamo che siamo per la maggior parte provvisti da 80% di acqua, quindi è importante. E inoltre consiglio le scorte alimentari. Io ho visto comprare le cose più stupide. Quali sono le cose che lei consiglierebbe, dalla sua esperienza, un cittadino pochissimo attrezzato? Se oggi dovesse fare la spesa e dire: prenditi quelle quattro cose che possono servirti se veramente venerdì nevica ancora e tu avrai in previsione un weekend dover star chiuso dentro casa, cosa bisognerebbe comprare? Allora, gli alimenti che noi possiamo trovare nei più comuni supermercati, la maggior parte sono zucchero o miele, farina, perché con la farina posso anche fare il pane, caffè solubile o tè, frutta secca, biscotti, cioccolata e caramelle, e alimenti in scatola, tipo quelli per la carne, tonno e la pasta. E possibilmente anche latte a lunga conservazione oppure latte in polvere. Latte che era terminato la settimana passata, quando ci fu la prima neve, non sarà più un goccio di latte e una briciola di pane in tutta Roma. Quindi evidentemente molti ci hanno pensato prima. Ecco, la frutta secca invece pochi lo sanno, ma se avete ancora qualche fico secco, qualche noce mandorla avanzata da Natale, probabilmente sono quelli che possono aiutarvi. Sentiamo Giuseppe da Roma. Giuseppe. Sì, salve, buongiorno. Sì. Io volevo apportare più che altro l'esperienza vissuta andando a Rocca di Mezzo tutti i weekend, perché ho mio figlio che scia. Alberto, lei ha una casa terremotata da quelle parti, comunque. Immagino, dispiacere. Praticamente venerdì mi sono trovato come tante di quelle persone sulla Roma L'Aquila, la 24, faccio una premessa, non hanno saputo organizzarsi in una maniera idonea, specialmente in quella zona, figuriamoci Roma, perché ne è veramente scesa tantissima di neve, ecco, cosa che non si dice. E quindi l'esodo dei romani verso Campo Felice si è bloccato. Siamo riusciti a uscire invece sulla Tiburtina Valeria in direzione Avezzano. Che Avezzano, peggio che mai, che ho visto che Avezzano è praticamente, c'è rischio di crolli addirittura per la neve. È stato peggio che mai. Abbiamo io ero con mio figlio di 8 anni, però in macchina tengo, anche quando è bello e sereno, una borsa dove dentro c'è una vanga, diciamo quella da snowboardisti, ci sono delle cime, ci sono tutte cose che apparentemente inutili, un'accetta apparentemente inutili, che ci hanno permesso di ritornare poi verso Tivoli abbattendo un albero che era caduto sulla Tiburtina Valeria, ci ha permesso di non rimanere fermi a Carzoli in qualche modo. Quindi lei aveva già in macchina qualcosa che tiene sempre di minima sopravvivenza. Vorrei sentire l'ultimo ospite, l'ultimo istruttore di sopravvivenza, che è Giuseppe Nobile, un ragazzo di 22 anni che ha creato un blog, sopravvivere.myblog.it, in cui non so se per attività amatoriale, per suo desiderio o per preveggenza ha messo tutti i consigli di sopravvivenza. Giuseppe Nobile, buongiorno. Ciao Gianluca, allora io ho aperto questo blog nel marzo del 2011 esclusivamente perché mi piaceva il tema della sopravvivenza. Dopo aver letto un libro che si chiama Scuola di sopravvivenza di Jerzy Palkiewicz, diciamo che mi sono appassionato al tema della sopravvivenza e quindi ho deciso di racchiudere in un solo blog tutti questi trucchetti di sopravvivenza. Ma tu sei attrezzato in questi giorni per sopravvivere alla neve? Ma diciamo che sono a casa al caldo e diciamo che non ho avuto occasione di sfruttare questi trucchetti che conosco. E quindi magari con il tempo e con la speranza che tutto quello che tu hai messo insieme, cioè di tutto, come sfamarsi con gli animali, come mettere trappole, come far bollire l'acqua, insomma, vedo che le persone attrezzate ci sono, l'importante è cercare e seguire i consigli. Questo non vuole essere naturalmente un presagio di funeste circostanze, ma speriamo che non accada nulla che debba far mettere in atto questi consigli di sopravvivenza. A domani. Melog, la realtà condivisa.